24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Marco Minniti, 52 anni, calabrese, laureato in filosofia, politico del PD, sottosegretario ai servizi segreti del governo Letta, confermato nel governo Renzi. È esperto di sicurezza, difesa, intelligence. Tra le altre ha la responsabilità di realizzare l'apertura degli archivi sulle stragi volute da Renzi. Ne parleremo, ma ieri per i servizi, per l'unità di crisi della Farnesina, è stato un grande giorno. Hanno riportato a casa con il loro lavoro Vanessa e Greta, le due cooperanti italiane prigioniere da luglio in Siria. Fonti arabe parlano di 12 milioni di euro pagati per il riscatto ed è subito polemica, nessuno naturalmente conferma. Lui ha accettato di parlare di tutto, ma di questa liberazione non può. Perché, onorevole Minniti? Non è una reticenza. Per legge, sulle operazioni dell'intelligence io posso soltanto riferire al Comitato Parlamentare di Controllo. D'altro canto, il governo oggi, con tempestività assoluta, riferirà alla Camera con il ministro Gentiloni. Vabbè, se mi può dire solo dove erano tenute, si sa o no? Sì, erano tenute prigioniere in Siria, uno dei teatri più critici, e questo ha reso difficilissima l'operazione. Io penso che da questo punto di vista bisogna comprendere che si è trattata di una delle operazioni più complesse che si siano mai fatte. Ecco, senta, allora parliamo del terrorismo, appunto. Partiamo da Parigi, dalle parole del Papa, sentiamole. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri. Se prendi in giro la religione degli altri, provocano. C'è un limite. Ogni religione ha dignità. Se aspettava delle parole così precise? Sì. Ed è d'accordo? Me l'aspettavo perché sono le parole di un uomo di fede e di religione. Lei è d'accordo e col Papa? Io sono un laico e penso che in questo momento l'elemento della libertà di informazione sia un punto cruciale per la democrazia, però comprendo perfettamente le parole del Papa e le parole di un uomo di religione che in questo momento sta lavorando per costruire un dialogo interreligioso. Ecco, è stato un atto di guerra quello di Parigi secondo lei? È stato un atto di terrorismo, che non significa derubricarla a una cosa minore. È stato un gravissimo e drammatico atto di terrorismo. Ma hanno colpito Parigi per colpire l'Europa oppure no? Assolutamente sì. È ragionevole aspettarsi a breve attacchi in Europa? Dobbiamo prepararci a tutto. Naturalmente quello che è avvenuto in Belgio ci conferma che l'obiettivo era l'Europa. L'Europa a macchia di leopardo. Ed è proprio per questo che l'Europa deve reagire unitariamente, perché i terroristi hanno una sensazione dell'Europa più unita di quello che effettivamente è. Senta, lei parla appunto, onorevole Minniti, di un nuovo tipo di terrorismo. Lei è un esperto, un terrorismo molecolare, cioè, in due parole... Non c'è una direzione strategica, non c'è uno che comanda quello che si deve fare in giro per l'Europa o in giro per il mondo, ci sono singoli soggetti o piccolissimi gruppi che si muovono in maniera spontanea. Tutto ciò rende più difficile la capacità di prevenzione. E come lo si combatte, appunto? Tanta intelligence preventiva? Lo si combatte con tre cose. Capacità tecnologica, naturalmente, che non bastano mai, c'è bisogno di intelligence umana, c'è bisogno di una collaborazione piena dei cittadini. Ecco, senta, ma mi dico una cosa, in Francia però è chiaro che c'è stata una falla nei servizi, hanno smesso di controllare questi conosciutissimi fratelli autori della strage, ma com'è possibile? Noi stiamo lavorando con i francesi per ricostruire quello che è avvenuto e noi siamo in una situazione del tipo che anche sui piccoli errori, e io non dico che in Francia ci sono stati errori perché naturalmente non spetta a me giudicare, anche sui più piccoli errori bisogna riflettere, perché riflettere sugli errori significa... Ti dà il modello giusto per reagire. Sì, perché onorevole Minniti, francamente 88.000 agenti mobilitati per catturare tre terroristi è una resa, è come dire non sappiamo che fare. No, non è una resa, è il segno di un'angoscia straordinaria. Nel momento in cui Parigi è stata colpita al cuore, la reazione della Francia è stata quella di mettere in campo tutto quello che poteva mettere, e per dire la verità la reazione è stata poi alla fine una reazione vincente. Senta, ma C'è chi consiglia di investire di più nell'intelligence e meno, per esempio, negli F-35. È una buona idea? Sono due cose diverse. Però i soldi sono pochi. Sempre. Sono due cose diverse. Gli F-35 hanno un impatto più strategico dal punto di vista della capacità di intervento militare del nostro paese fuori dai confini nazionali. L'intelligence, secondo me, oggi è il cuore principale della risposta al terrorismo. Appunto. Senta, non posso dire altro perché altrimenti sarebbe Cicero pro domo sua. Però ogni tanto serve, però. Onorevole Minniti, senta, gli stati occidentali hanno una lista di 12 imam erranti che predicano terrore e morte. Ma dove sono? Si spostano spesso. Ma voi cosa fate per fermarli? Posso dire che noi abbiamo un'eccellente cooperazione con gli altri servizi di sicurezza di tutta Europa e delle grandi democrazie del pianeta. E li controllate? No, ma per essere concreti. Noi li controlliamo. Il punto qual è? Che è importante che i luoghi di culto siano luoghi di culto pubblici. E quando si fanno le polemiche sulle moschee, posso dire che c'è qualcosa che non mi convince. Per me è molto importante che le conversioni e le preghiere siano pubbliche. Quindi meglio le moschee. Assolutamente sì. La cosa peggiore è invece quando il culto è catacombale o addirittura la conversione avviene via web. Quelle sono le cose da cui dobbiamo di più guardarci. Ecco, senta, uno dei più fanatici di questi imam erranti ha un nome. Robert Cesantonio, lo state cercando? È uno di quelli che abbiamo massimamente all'attenzione. Ma ecco, ma l'attenzione poi cosa vuol dire? Lo seguite, lo prendete, cioè che cosa fate? Ecco, noi non parliamo dei singoli casi perché naturalmente io parlo in generale. Sì, ecco, ma i 12, quando io dico c'è bisogno di una maggiore attività umana significa controllo? Significa capacità di entrare in quei meccanismi, significa la capacità di essere permanentemente quasi a vista d'occhio, che è una cosa diversa da quella di ascoltare le conversazioni meno droni, più persone, attraverso diciamo grandi fratelli, attraverso lettere. Senta, però lui, Cesantonio, si è fatto fotografare con la bandiera dell'ISIS alle spalle davanti a San Pietro. Mi sembra un'indicazione precisa di un obiettivo. È sicuramente una minaccia. Naturalmente noi dobbiamo stare attenti. Noi siamo di fronte a una situazione in cui le minacce possono essere possibili, probabili o concrete. Cioè, noi abbiamo adesso la situazione in cui la minaccia è possibile, però noi reagiamo come se fosse concreta. Ecco, perché gli americani dicono che San Pietro e il Papa sono obiettivi concreti per i terroristi. Sono obiettivi possibili. Non abbiamo nessuna minaccia concreta. Se posso anche permettermi, dobbiamo gestire la cosa con una certa e con un certo equilibrio, perché la Chiesa Cattolica e il Vaticano fondano sulla predicazione il rapporto con i fedeli, diciamo la cosa fondamentale di una religione. Certo. Dobbiamo stare attenti a non cadere nella sindrome della paura, perché la sindrome della paura porta è uno degli elementi fondamentali diciamo che vogliono raggiungere i terroristi. L'obiettivo. Senta, si parla di 3.000 terroristi di origine europea pronti a intervenire, di cui 53 sono passati per l'Italia. Quanti sono italiani? Gli italiani di questi 53 sono 4. Passati per l'Italia cosa vuol dire? Che avete saputo che transitavano? Che sono italiani, che sono stati in Italia e poi si sono arruolati, che sono passati dall'Italia. E noi abbiamo fornito al Comitato Parlamentare di Controllo l'elenco preciso. E abbiamo fornito anche chi segue ogni chi singolo segue soggetto. Chi? Quindi sono controllati e diciamo seguiti. Più di così diciamo, non si poteva fare. Ma c'è qualche partito, televisione, giornale più a rischio di altri in Italia? L'Italia è un obiettivo ipersensibile, Roma è un obiettivo ipersensibile e tuttavia noi abbiamo oggi in questo momento una capacità di prevenzione che ci porta a dire che non possiamo naturalmente stare tranquilli perché nessuno in questo momento può stare tranquillo, però insomma abbiamo quindi le carte in regola per poter diciamo trasmettere un messaggio. Altri, politici che devono avere più paura degli altri, Salvini, non so, la Lega, che ne so. No. Noi prestiamo occhio a tutti e in ogni caso diciamo le gradazioni di preoccupazione non possono essere dette alla radio. Questo va bene. Senta, il palcoscenico dell'Expo 2015 però sembra fatto apposta per stimolare il terrorismo. Già è partito in modo complicato l'Expo, adesso arriva proprio nel momento in cui tutti i paesi, tutti lì, sembra un invito. Lo sapevamo già prima. Lo credo, l'Expo, ma adesso l'Expo sarà un palcoscenico straordinario dal punto, di vista positivo, ma naturalmente, sarà anche, però sarà anche assoluto. Un palcoscenico straordinario per quanto riguarda la sicurezza. Avete paura un po'? Siamo attrezzati. Attrezzati, cioè vi siete organizzati? Siamo attrezzati. Devo dire la verità che da tempo pensiamo a questo prima che ci fosse il momento critico che dice, è arrivato adesso. Quindi lei dice agli ascoltatori, state tranquilli, non capiterà niente. Lavoriamo perché succeda questo. Vabbè. E così è più preciso, diciamo. Onorevole Ministro, senta, è il momento di varare misure eccezionali come negli anni 70 per contrastare il terrorismo oppure non c'è bisogno? Non c'è bisogno di misure eccezionali, c'è bisogno di avere interventi che completino la nostra legislazione. Ecco, ma una procura generale di coordinamento sarebbe auspicabile? Quella è un'ipotesi che va nella giusta direzione, se ne è discussa al Ministero della Giustizia e dell'Interno. Se ne è discusso con i procuratori distrettuali delle principali procure, mi pare che ci sia una posizione univoca. Ci sono delle cose che dobbiamo completare, però al terrorismo una democrazia risponde con le armi della democrazia. Senta, qualcuno propone addirittura di modificare Schengen, però insomma c'ha senso o no? Sospendere o addirittura superare Schengen sarebbe un colpo mortale al cuore dell'Europa. Io penso che non si debba fare questo. Non ha senso. Appunto perché l'Europa deve rispondere da Europa alla sfida unita e non ridividendosi. Ecco, ma l'ISIS ha colpito all'improvviso, di sorpresa, l'Occidente. C'è stata una sottovalutazione. Una sottovalutazione. A mio avviso sicuramente sì, non abbiamo capito quello che stava avvenendo e ci siamo trovati di fronte a una situazione che improvvisamente è mutata. Sono mutate le gerarchie. Prima c'era Al-Qaeda e poi c'era ISIS. Poi a un certo punto le gerarchie si sono rovesciate. Perché ha trovato il territorio. Perché ISIS tiene insieme due cose: la capacità di fare una guerra convenzionale, appunto in Siria e in Iraq, e la capacità di gestire una guerra simmetrica, cioè il terrorismo. Prima nessuna organizzazione al mondo era riuscita a fare questo. Ecco, ma lei come, quindi pericolosissima? Assolutamente sì, e sarà una sfida di lungo periodo e la sfida è irriducibile. Senta, Hezbollah e Hamas hanno condannato i fatti di Parigi. È sorpreso? Non sono sorpreso. Perché? E penso che noi dobbiamo comprendere che nella lotta al terrorismo la cosa peggiore che si possa fare è di fare tutto nel buffascio. Perché c'è troppa ignoranza, diciamolo. Assolutamente sì. Si parla sì. Per slogan. Assolutamente sì, dobbiamo evitare di fare tutto nel buffascio e comprendere che nel momento in cui si divide il fronte è molto meglio per coloro che vogliono vincere il terrorismo. Ecco, senta cosa ci ha detto un grande conoscitore dell'Islam, il professor Franco Cardini. Perché gli estremisti come Hezbollah e Hamas li condannano? È un problema di concorrenza? No, li condannano perché non esiste il moderativismo e l'estremismo. Questi sono fantasmi che ci ritagliamo noi, ma sono immagini di comodo. Li condannano perché l'Islam è estremamente complesso. Li condannano perché noi dimentichiamo sempre, ma un grande studioso come Gilles Kepel l'ha ricordato, che nell'Islam è in atto una fitna, è in atto una guerra civile, religiosa, culturale e anche una guerra di potere all'interno dell'Islam. A noi sfugge che i fratelli Shawki e quell'altro povero disgraziato del supermarket in realtà fanno parte anche di questa fitna, se appartengono ad Al-Qaeda. Al-Qaeda è nemico di tante cose, ammesso che esista come ce lo immaginiamo noi, e non è così, ma è nemico soprattutto dell'IS, dello Stato Islamico di al-Baghdadi. Quindi tutti speculano, onorevole Minniti, sul rapporto tra ignoranza e paura sostanzialmente. Se ne sa tanto poco. Cardini sicuramente è un profondo conoscitore, le cose che ha detto devono essere tenute nella giusta considerazione. Senta, onorevole Minniti, non è un mistero però che uno dei fattori di debolezza dell'Occidente è dovuto anche al fatto che dopo il caso Snowden è finita o si è allentata di molto la solidarietà tra intelligence occidentale. È ancora così? Il caso Snowden è stato un terremoto. e tuttavia l'intelligence occidentale ha reagito in maniera straordinaria. Oggi posso dire che siamo più uniti di prima, anche se naturalmente sul caso Snowden abbiamo riflettuto. Ci sono ferite, ma aggiungo anche che l'Italia in quella discussione ha potuto dire la sua, perché in Italia c'è un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e le esigenze di rispettare i principi fondamentali della democrazia. Da questo punto di vista siamo stati considerati quasi un punto di riferimento. Ecco, però il mondo anglosassone, al di là del caso Vanessa e Greta, si lamenta perché loro non trattano per la liberazione degli ostaggi. Noi sì. È un pregiudizio superato oppure no? Noi rispettiamo le regole internazionali come le rispettano i paesi anglosassoni. Naturalmente poi ci sono varie sensibilità, ma noi rispettiamo le regole internazionali. Abbiamo anche naturalmente al cuore il grande interesse alla difesa della vita. Ecco, però, onorevole Minniti, francamente, lei crede che ci siano delle cose che uno Stato democratico deve fare per difendersi, anche a prescindere dal rispetto millimetrico delle regole? Naturalmente sì, e però questo è previsto per legge. E noi sappiamo per legge che possiamo fare operazioni che vadano, tra virgolette, oltre la legge. Ecco, ma queste operazioni che vanno oltre la legge devono essere autorizzate da coloro che hanno responsabilità politica, e in Italia vengono autorizzate dalla magistratura. Abbiamo una doppia chiave, questa è una garanzia per la democrazia. Ecco, il cinema e la fiction americana ci rappresentano però uno Stato democratico che può giocare sporco per l'interesse nazionale. Ecco, è solo cinema e fiction oppure no? Lo Stato democratico non deve giocare sporco. Lo Stato democratico deve smettere un messaggio che è possibile fare operazioni sotto copertura attraverso quella doppia chiave negli interessi generali della sicurezza del paese. Ecco, però Israele e Stati Uniti le fanno, non è solo fiction. Loro hanno altre regole d'ingaggio. Hanno un altro tipo di rapporto e un'altra storia. Sono due paesi che hanno avuto un rapporto con gli eventi bellici molto diversi da quelli che ha avuto l'Italia. Senta, intanto il governo, un punto su un punto, vuol fare chiarezza. Abbiamo detto all'inizio, con l'apertura degli archivi sui grandi misteri d'Italia, come sono stati scelti? E noi abbiamo scelto gli anni più difficili della storia d'Italia, gli anni delle stragi del nostro paese, sono 15 anni, dal 69 all'84, gli anni cruciali della storia d'Italia. Senta, lei garantisce che all'archivio arriveranno tutti i documenti? Assolutamente sì. Sicuro? Al 100%, ecco. Garantisco su questo, sulla mia persona. Va bene, senta, glielo chiedo perché nella commissione che sta valutando le carte però non ci sono archivisti, perché? Perché si tratta di valutare se in quei documenti bisogna rivelare i nomi delle fonti. E siccome i nomi delle fonti sono il cuore delle agenzie di informazione, non possono che valutarlo coloro che stanno dentro le agenzie di informazione. Stiamo parlando di materiale classificatissimo. Quindi molto, anche nel lavoro di verifica non può essere quindi fatto. Quindi sarebbero una garanzia in più, ma sono un rischio in più anche. Assolutamente, perché nel momento in cui noi dovessimo rivelare il nome di una fonte, soprattutto se quella fonte è ancora in vita, metteremmo a rischio la sua vita. Ecco, lei ha parlato i 70 metri lineari di documenti relativi alle strage, appunto, fino al 69 all'84. Ecco, documenti che sono pronti a essere declassificati, però non sono pochi, 70 metri lineari. Ho provato a immaginarli, non mi è sembrato tantissimo. Non sono pochissimi. Noi abbiamo fatto il 5 dicembre il primo versamento, che è un versamento assolutamente importante. Posso dire che è la più grande operazione di discovery, di resa nota di documenti che si è fatta nella storia repubblicana, e di questo siamo leggermente orgogliosi. Senta, onorevole Minniti, ma senza controlli degli archivisti, per le ragioni che ha detto, non c'è rischio che possa diventare, col controllo della politica e basta, una colossale distribuzione di polpette avvelenate? Assolutamente no, perché poi tutto viene sottoposto al vaglio dell'opinione pubblica. Questi documenti potranno essere letti da chiunque, letti dai giornalisti, letti dagli storici, letti dai singoli cittadini. Ci sarà in qualche modo quello che si chiamava una volta il controllo sociale. Ma farete una campagna di informazione su questo? Assolutamente sì, la stiamo facendo, la rafforzeremo ulteriormente. Senta, lei ha detto che questa operazione mette l'Italia in condizione di guardare il suo passato dal buco della serratura, non più dal buco della serratura, ma dalla porta principale. Cioè, esattamente cosa intende? Che un paese che vuole avere un futuro solido deve guardare in faccia senza timori la propria storia per avere futuro. Senta, ma c'è una radice comune di questi misteri? sono cose naturalmente diverse, no, ma mi capisce bene. Sì, naturalmente il punto cruciale è questo, sta nella collocazione internazionale dell'Italia. Cioè, quindi sono l'Italia, misteri che derivano anche dal ruolo dell'Italia nella scacchiera internazionale durante la Guerra Fredda. Assolutamente, l'Italia era un paese cruciale dentro la storia della Guerra Fredda, diciamo, degli ultimi 50 anni. Senta, ci sono ancora 12.500 atti relativi al caso Moro e dopo 36 anni non sono desecretati. Perché? Sono stati declassificati dal governo Prodi, poi naturalmente alcuni ancora non sono giunti fino in fondo al processo, però sono stati già declassificati dal governo Prodi. Però il caso Moro non è inserito negli eventi da desecretare. Perché li ha già declassificati il governo Prodi e poi in ogni caso in questo momento c'è una commissione bicamerale del Parlamento italiano che sta lavorando su questa vicenda. Senta, onorevole Minniti, lei dice che ogni mattina si sveglia e pensa alla Libia, perché? Perché la Libia è lo specchio dell'Italia e dell'Europa. Se la Libia va bene l'Italia e l'Europa. Se la Libia va male, purtroppo c'è il rischio drammatico di una catastrofe e saranno problemi per l'Italia e per l'Europa. Per non adesso, solo per l'Italia, io insisto, per l'Italia e per l'Europa. No. E per adesso è un disastro, quindi abbiamo sbagliato forse a abbandonare Gheddafi troppo presto, prima che ci fosse una soluzione successiva. Lì, il limite fondamentale è questo. Nel momento in cui si pensa a un qualunque forma di intervento militare, bisogna sempre pensare al dopo. Se si tengono slegate le due questioni, il rischio è di creare delle situazioni non governabili. Io non ho nessuna nostalgia di Gheddafi. No, Gheddafi no, era ma un non dittatore. Lo dico per quello. Naturalmente noi dobbiamo pensare che la comunità internazionale, quando interviene, interviene attraverso iniziative militari, deve pensare naturalmente e in maniera drammatica. Cerchiamo di essere chiari, siamo pronti a intervenire in Libia se servisse? In questo momento sono in corso dei colloqui a Ginevra per vedere di trovare una soluzione che tenga unita la Libia e che trovi l'elemento della collaborazione tra le varie fazioni. Ma l'Italia è pronta a intervenire se serve. Se le Nazioni Unite decideranno di avere un atteggiamento, tra virgolette, di impegno diretto, di peacekeeping in Libia, l'Italia farà la propria parte. Quindi siamo pronti. Senta, oggi, a causa del cybercrime, si calcola che ci siano 12 vittime al secondo e danni per 113 miliardi di dollari. A che livello può essere efficace l'organizzazione della lotta contro il cybercrime? Ha fatto bene a citare i numeri perché c'è una sottovalutazione. E la questione è cruciale. Il cybercrime oggi è la frontiera principale nella quale si gioca un pezzo della libertà e della solidità delle democrazie. Perché? E perché naturalmente attraverso iniziative nascoste di cui non si può mai sapere chi è stato, si possono addirittura destrutturare pezzi importanti della democrazia. Noi siamo abituati ad una velocità nei rapporti con il mondo. Se qualcuno incomincia a mettere in discussione che la velocità è il rischio di una crisi, noi andiamo a fare il prelievo col bancomat. Se a un certo punto qualcuno con un intervento informatico fa saltare il bancomat, è chiaro che quello produce in maniera immediata una crisi di panico dentro le democrazie e dentro l'economia. E come siamo organizzati contro quel panico? Noi abbiamo lavorato, abbiamo un piano nazionale per la cyber security, un piano nazionale che tiene insieme tutte le varie amministrazioni, ivi compresa quella dell'intelligence. Gestita da voi? È coordinata dalla Presidenza del Consiglio, noi ci mettiamo la nostra parte perché siamo un pezzo fondamentale di questo percorso. Senta, onorevole Minniti, è vero che sono migliaia i giovani che fanno domande per lavorare nei servizi? Assolutamente sì. Sì? E come deve essere? Questa è una bella notizia per noi e per l'Italia, dice. Ma e come deve essere uno 007 del terzo millennio? Deve sapere le lingue. Noi abbiamo bisogno di persone che conoscano l'arabo, proprio per citarne una. Abbiamo bisogno di ingegneri informatici. Abbiamo bisogno del meglio che c'è dentro l'università italiana. E per questo ci rivolgiamo ai centri alti della formazione italiana. E da questi centri alti migliaia di domande? Migliaia di domande e nessuno potrà dire di non aver avuto una risposta. E come li selezionate alla fine? Li selezioniamo attraverso il curricula e attraverso i colloqui individuali. E quanti ne prendete all'anno per avere una dimensione? Purtroppo i numeri sono piccoli rispetto a quelle che sono le domande, ma la nostra idea è incrementare i numeri. Senta, onorevole Minniti, le faccio un'ultima domanda. Qual è la cosa che l'ha colpito di più? Lei è un politico di lunga data. Purtroppo. Che l'ha colpito di più delle carte che avete desecretato e sversato? Cosa l'ha colpito di più di quelle strade? Il fatto? Mi ha colpito di più l'operazione in quanto tale. Non c'è una carta principale, perché il problema fondamentale, sa qual è? Noi facciamo un'operazione che avrà un impatto storico-politico. Non c'è in quelle carte la pistola fumante. perché naturalmente se ci fosse stata l'avrebbero già trovati i magistrati. Però ci sarà molto elemento per ricostruire una storia collettiva del nostro paese. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Mario, titolo a Minniti? Allora, è stato bravo, ha usato una parola che ricorda una grande navicella spaziale, per cui io lo titolerò così: Discovery. Discovery. E tu Pietrangelo? Intanto, ma la cosa che mi ha colpito è che si trova lavoro ad andare a lavorare nei servizi, quindi altro che scienze delle comunicazioni. Però il titolo che farei, visto questa operazione trasparenza, è Ciò che passò si svelò. Come passò si svelò? E di ciò che il resto non si parlò. Certo. Come quando fuori piove, come quando fuori piove, come quando fuori piove. Meglio stare in casa, la finestra chiusa, con il gatto in grembo che ti fa le fusa. Ora Pietrangelo, oggi che e facciamo? Allora oggi che come quando fuori piove, però non con la pioggia, è tutto un gocciare di pensieri, la precipitazione di parole, tutte giuste per dare il buon umore al mattino. È come quando fuori piove, Giorgio Conte lo sa cantare, piove di fragranze, di sfumature, di colori e di piccoli premi, tutti dovuti in ragione di una traversata, quella di una settimana risolta a essere banco di prova per ognuno al punto di fare della giornata e di quel che verrà una pittura, una rappresentazione affollata con le facce di tutti. Ed è successo questo in metropolitana, erano facce bagnate, tutte. E succede questo, tutte bagnate oggi di felicità. Ed il gatto è nero, morbido ed elettrico, è suo lungo pelo. Noi allora Mario, cosa bolle in pentola oggi? Soldi. Soldi. Ehi, sfida, questo è un pezzo da rocchettari, va bene. Vero. Allora, soldi. Siamo franchi, nel senso di non sincerità. Insomma, la banca svizzera l'avete visto, ha sganciato accidenti. Il franco al cambio minimo sull'euro, era 1,20, una bomba. Gli effetti, diciamo, macro li conoscete, li avete visti già ieri, continueranno ancora oggi e nei prossimi giorni di contrattazioni. La cosa interessante è un po' di casi concreti, cioè vittime. Beh, c'è un'azienda che si chiama FXCM che ha sede a New York. Cosa fa? Scambia monete, no? Le contrattazioni su questo mercato e ha comunicato ai propri clienti ieri di aver perso 225 milioni di dollari, anzi avete perso 225 milioni di dollari. Nell'ultimo trimestre questi avevano trattato la bellezza di 1,4 trilioni di dollari, in franchi ovviamente. E certo. Global Brokers invece in Nuova Zelanda, sempre per gli effetti collaterali, ha chiuso direttamente tutta l'attività. Era un piccolo broker, è andato a carte 48. Pulizia sul mercato. E insomma, questo è qualcosa di più, Giovanni. È proprio una botta enorme. Pensa in Polonia e Ungheria, per esempio, siccome i mutui sono espressi in franchi svizzeri, si aspettano un po' di diciamo effetti collaterali. Insomma, quelli dell'orologio al cucù sono molto imprevedibili, perché fino a pochi giorni fa dicevano: no, non facciamo niente, non tocchiamo niente. Sanno tenere i segreti, a proposito di quello che abbiamo detto oggi. Sì. Salamino! Salamini di Quirinarie o Quirinalie, che dir si voglia. Spunta il sole, canta il gallo, Pietro Grasso monta a cavallo. Ai. La giornata fa la mesata e sono ormai due giorni di supplenza fatta. E perciò due due giorni di supplenza fatta. E sai, l'Italia ormai, col fatto che appunto c'è Pietro Grasso, seconda carica dello Stato, a far da supplente, l'Italia si riconosce in Roma che è più bella e più superba che pria. Ah, è una situazione meravigliosa. Come basta no? Andare per strada, si sente, tutto. Si avverte che il cambiamento. Già due giorni di supplenza di Grasso hanno fatto un capolavoro i corazzieri sono a Palazzo Giustiniani e Pietro Grasso, novello Renato Raschel, veglia sui destini della patria aprendo così le trattative. Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta bando a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere. Figurati che faccio il corazziere. Dicon che ecco i candidati, provate a indovinare, io ve li voglio dai, presentare dai, attraverso i loro pronti. Inni. Il primo candidato. Avete capito già di chi si tratta? L'identikit è esplicito, è chiaro, è Walter Veltroni, che forte della sua impronta africana si presenta tra i candidati, però Veltroni ha un grosso problema. E cioè, essendo lui il titolare del marchio il Veltronismo, essendo poi lui l'artefice di quel capolavoro che è il trafficare nell'immaginario, insomma, se lo mangia a colazione Renzi, a Renzi c'è il problema di avere uno che non gli faccia ombra, per cui si tenta un altro candidato. Ragazzi, oh, porco boy, ho confini. O con quelli che stanno dentro le fabbriche che non mi ricordo più come si chiamano. Oh ragazzi, siamo mica qui a smacchiare i zaguari. Ecco, l'avete indovinato, l'altro candidato è Pierluigi Bersani. Ma anche credevo fosse Crozza. No, più. Perché quello era Crozza. No, era Bersani. Era quello vero. Però appunto, sia Crozza che Bersani fanno ombra a Matteo Renzi. Tutti fanno ombra a Matteo Renzi. Tutti, pur essendo Renzi, diciamolo, e qui le signore in regia lo possono confermare, Renzi è esteticamente disagiato, giusto? Ecco, bene. A tutti così. Sembra bello, però giustamente le donne che sono femmine lo capiscono se uno è brutto. Insomma, certo. Allora, andiamo avanti. Chi sarà l'altro candidato? C'è una traccia? L'era fasol cludeva la frizzi quando la cantea un solenda parlì. L'era fasol cludeva la frizzi quando la cantea un solenda parlì. Ecco, e lui Felsineo da Bologna. Arriva domo cacchio Pier Ferdinando Casini che è così bravo a non fare ombra che si mimetizza nell'essere perfino invisibile. Ma insomma, sono tanti ormai candidati alle Quirinario, Quirinalia, che dir si voglia, che Giorgio Napolitano, avendo preso possesso del suo ufficio a Palazzo Giustiniani, ad ognuno dice così: quella che è fatta e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parlo ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo faceva. E a casa mia me la mastiva, Pietraggio in gran forma, forma. Bene. Penso se Casini diventa Presidente della Repubblica, insomma, è cosa meravigliosa. Sì, perché no? Ci abbiamo ancora una bolla, no, ce n'è ancora uno, no, finiti. No? This is the end. Sì. Eccola, senti. Beautiful friend. Ok, I Doors, This is the End, cari ragazzi. Torniamo sulla terra, così giusto. Ma perché non vai a fare un festival di Sanremo? No, per carità. Ci metti I Doors. Com'è che è? Troppo? Troppo very well. Troppo very well I Doors per Sanremo. Vabbè. Allora, e niente, dopo il trilione di dollari di investimenti cancellati dalle compagnie petrolifere, vi segnalo che il più grande fornitore di attrezzature per fare le esplorazioni, gli oleodotti, le piattaforme del settore, cioè la Schlumberger, licenzia 9.000 persone, il 7% della forza lavoro. Lo shock del petrolio al ribasso in questo caso è molto più grande di quello che si possa immaginare. Oggi in Norvegia ci sarà un vertice straordinario, non succedeva dall'inizio della grande crisi, del governo. Ricordo che la Norvegia ha uno dei fondi sovrani più grandi e ricchi del mondo, per varare un piano di emergenza per coprire le perdite. Chi dipende dal petrolio oggi a Dolori. Grandi, grandi canzoniere. Accoccò al letto, un cavo d'ormeggio improvvisamente spezzatosi durante una mareggiata aveva tranciato di netto la gamba mancina e perciò non aveva più potuto fare il mestiere suo di capostivatore. La gamma artificiale non gli acconsentiva di trafficare sopra passerelle e farlacche di navi. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, per chi... L'autore c'è, il titolo manca. E vediamo se ci arriva il titolo. Pubblicità. Mix 24. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, senti qua. È tempo di relax. È tempo di Santori. Catto, catto, catto, catto! Mio! Qualcuno ricorda Lost in Translation? Grande film di Sofia Coppola, cioè, grandissimo attore e attrice, non vi dico altro, ve lo dovete guardare. E voglio parlarvi di whisky, perché lo scorso novembre il super critico del settore, che è Jim Murray, non a caso c'è un'omonimia con l'attore che dovete scoprire, ha decretato che il miglior whisky del mondo non è più scozzese ma è giapponese. Ora, in Scozia non l'hanno presa bene, però siccome so che ci sono tanti estimatori della bevanda, io vi consiglio tre distillerie e poi gli appassionati ci diranno come cosa ne pensano. Sono quelle segnalate oggi come il top massimo: la Yamazaki, la Suntory Biki e il Nikka Yoichi. Quindi difficile, buona, ricordare. No, facile, facile, facile. Yamazaki, Suntory Biki e Nikka Yoichi. Allora, perché dovete prepararvi poi a rispondere, e vi ricordo che funziona così. È tempo di relax, è tempo di Santori. Catto, catto, catto, catto! Canuio! Catto, catto, catto, catto, le voglio vedere. È la fine della settimana ed è venerdì, e quindi è il momento della posta del cuore. Lo ripeto, scriveteci a mix24@radio24.it. È tornato da un viaggio di lavoro carico di regali. Strano. Infatti è crollato subito confessando di avermi tradito. Mi ha chiesto di perdonarlo, giurando che si è trattato di una notte basta, una donna conosciuta durante il congresso, e di non avere intenzione di rivederla. Io gli ho creduto. Siamo sposati da 12 anni e questo non è uno dei momenti peggiori, anzi... Magari, non so, il rischio di perderlo mi ha fatto tornare la voglia di averlo. Forse il fatto che un'altra lo avesse voluto gli ha fatto guadagnare punti. Insomma, anche la nostra vita sessuale ci ha guadagnato. Fin quando non ho raccontato tutto a un'amica, che l'ha riferito a un'altra, e nel giro di un paio di giorni lo sapevano tutte. E tutte ad aizzarmi contro di lui, indignate e incredule che avessi accettato la cosa con tanta naturalezza. Mi sono difesa, ma intanto sono riuscite a farmi sviluppare una rabbia che altrimenti non avrei provato. Ora lo guardo e mi irrito. Con lui, con loro e anche con me stessa, che mi lascio condizionare dalle loro reazioni, tanto che adesso non so più che pensare. Beh, Pietrangelo, che cosa deve pensare questa povera ascoltatrice che ci scrive? Dopo aver fatto tutti sti danni, intanto il danno fondamentale, la devono smettere di fare i moderni. Ma chi? Ma tutti, lui e lei, già intanto il primo errore lui va a confessare. Ora, appunto. Queste cose non si possono sentire. Ma la sincerità? Insomma, c'è la sostanza, c'è la sostanza. Allora, uno dice che fa? Mangia a casa, giusto? Oh, però che fa? Se è fuori, una pizzetta, non se la prende? Questa è la teoria di mio cugino Maurizio. Mio cugino Maurizio sostiene questa teoria. Insomma, uno va a mangiare a casa, però una pizzetta che fa, non se la prende fuori, e si è preso la pizzetta. E non lo dice, anche perché deve onorare il pranzo, quindi mangerà con ancora più appetito. Dopodiché, invece, mia zia Grazia sostiene, va buonanimo, una tesi che dovete sottoscrivere. E si tratta di questo: che non esistono corna declinate al femminile, perché se esistono sono d'oro. Per cui immaginate la scena, la musica si presta, immaginate la scena del contadino che se ne torna a casa dopo una giornata di duro lavoro, e quindi il suo asino o mulo carico di bisaccia grossa e poi vari piccoli pesi che lui dona qui e là per portare poi il sacco più importante a casa. Dopodiché statevi mute. Va bene, va bene. Invece nel nord Italia si pensa così. Cioè... Invece dove? Nord Italia. Ah, voi dell'altra Italia. E poi va bene. Cioè, secondo me in certe situazioni alcune amiche sono terribili e tra l'altro si influenzano, come hai potuto sperimentare anche tu, nostra ascoltatrice, l'una con l'altra, arrivando ogni tanto addirittura, secondo me, a sciogliere proprio la propria individualità e l'indipendenza di pensiero in questo calderone comune di frustrazione. E poi una cosa io l'ho imparata: ascoltare mille pareri è come non averne nessuno. Quindi lascia perdere queste amiche. Io invece ti voglio fare i complimenti, perché al nord, come stavi facendo tu, sembrava una dimostrazione di grande forza e consapevolezza. In fondo, perché allarmarsi? Chi ha detto che la tentatrice fosse migliore di te? Chiudiamo la puntata, curata come sempre da questa parte, da Marina Milone, con la seconda puntata della storia di Ronald Reagan. La corsa al riarmo non è solamente un gigantesco errore. Pensare questo significa astenersi dalla lotta tra il bene e il male. Noi dobbiamo essere coscienti del fatto che da una parte i sovietici predicano la supremazia dello Stato, dall'altra dichiarano l'onnipotenza di quello Stato su ogni singolo individuo e mirano al dominio globale. Sono il centro delle forze del male nel mondo. Ecco, era Ronald Reagan l'8 marzo dell'83 in Florida. Come ho detto, oggi, dopo il GR, continua il nostro racconto sulla vita e la sua politica negli anni 80. Intanto, per chiudere, Teresa di Sio, con Voglio tornare, pubblicità.